Allora, all'inizio PoiStory era un sito per raccontare le proprie esperienze di viaggio e trasformare queste esperienze di viaggio in guide personalizzate. Però, cosa è successo? È successo che da una parte era impossibile fare guide fino a che non avessimo avuto una quantità di contenuti enorme. Dall'altra, il problema è che i contenuti erano tipici contenuti da blogger, che da un certo punto di vista sono interessantissimi perché sono di ispirazione per viaggiare, ma non sono contenuti adatti a una guida. Non, cioè, non sono contenuti, come posso dire, tecnici, quindi che dicono orari, chiusure, orari di chiusura e apertura dei negozi o dei musei. E quindi alla fine non avevamo né materiale per fare le guide né effettivamente dei contenuti per fare le guide. E quindi abbiamo deciso di cambiare strada fondamentalmente, che ci siamo resi conto che non era semplice riuscire a produrre questo tipo di contenuti. Invece il nuovo PoiStory su cosa si basa? Cioè, noi prima di tutto siamo partiti dalla creatività, cioè ci piacerebbe comunque riuscire a coinvolgere gli utenti di internet cercando di farli partecipare appunto a queste sfide. Per fargli sfoderare la loro creatività, questo è quello che cerchiamo di fare. E la sfida è nata perché avete sentito l'esigenza o comunque la voglia di colmare un vuoto che sentivate all'interno del mondo tecnologico? Sì, in realtà perché questo tipo di sfide già sui social network si fa, è già è presente, però ci siamo resi conto che spesso i contenuti, posso dire, erano poco creativi e soprattutto si perdevano tra selfie, gattini e animalini di vario genere. Siete riusciti in qualche modo a convogliare qualcosa di creativo e allo stesso tempo un modo in più per avvicinare le persone di tutto il mondo ai propri interessi, quindi però legati sempre al viaggio, un modo nuovo di concepire il viaggio. Sì, infatti a questo proposito noi abbiamo proposto un contenuto anche diverso. Diciamo, abbiamo alzato un po' l'asticella rispetto al tipico contenuto web, più che altro tipico contenuto social. E quello che fondamentalmente chiediamo di pubblicare sul nostro sito per partecipare alle nostre sfide è un contenuto che è fatto da una foto, ma anche da un testo creativo. Un testo che può essere un racconto, può essere la sensazione che uno ha provato, il profumo che uno ha sentito.